Levarsi tra un sogno incostante e un risveglio bastardo, dove la mente è solo nebbia e il corpo come morto. Primi pensieri albeggiano, i dolori si fanno sentire, motore serio acceso, gli arti si muovono. Piccone sulla mano, caschetto sul capo, per un'altra giornata di duro lavoro. Sputo per fame, bestemmia per il resto, 10 ore sono lunghe a passare. Sudore bagna i vestiti, punge le nari, brucia la pelle, la polvere si attacca sul corpo, ma pesa sul cuore. Una morsa stringe i muscoli, i denti stridono, l'aria calda e densa, inspirare quasi soffocare. Come un fantasma immerso nel buio, con occhio che illumina un punto di una grotta arida e sporca, di un orizzonte senza risposta. Ma finalmente il sonno arriva.